squillino le trombe a Rock FM. Sono le 8. C'è pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La meglio in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta. Allora, abbiamo l'appuntamento quotidiano con gli amici delle 8, quelli che hanno il piacere, la fortuna di svegliarsi in questo momento. Momento uccellini, eccoli lì che sono. Allora, cari amici, cari amiche, vi siete persi un'ora di pane, burro, rock and roll a festeggiamento, visto che dall'inizio della nostra trasmissione siamo all'appuntamento numero 100. E allora quest'oggi la sveglia, sapete come ve la diamo? Ve la diamo alla vecchia, ve la diamo così. Questa la si deve cantare tutti insieme. Vi ricordate come si faceva? È benaugurante, per far splendere il sole anche quest'oggi. Let the sunshine! Io se la canto svengo, ve lo dico. C'ho le scalmane io. E poi non becco neanche la tonalità. Let the sunshine! Sono sotto Tagliperina, lasciami stare, va. Let the sunshine, let the sunshine, the sunshine. Anche voi che ascoltate in ufficio di nascosto e cantatevela. Il numero di SMS. Lasciatelo splendere anche oggi. Sarà uno splendido martedì mattina, pomeriggio, sera, quello che volete. Oh, c'è gente che continua a commentare positivamente le canzoni dei Beatles in italiano, eh. Poi ve le meritate tutte, io ve lo dico. Ragazzi, che cori, meglio dei ricchi e poveri. Ehi, granchio, sei meglio della nana dagli occhi azzurri con la voce da mal di pancia. Angela, ma chi dei ricchi e poverina? Aver vissuto queste 100 mattine mi fa sentire come avere un non compleanno in meno da festeggiare. Va bene, insomma, ragazzi, benvenuti a Pane, Burro e Rock and Roll. Si prosegue di Led Zeppelin, che forse è meglio. 8 e 4 minuti primi, vado di là a svenire con Fricchio. Thousand times it's time to run on. Ai radioascoltatori, la gioia di svegliarsi alle prime ore del mattino è solo ed unicamente in attesa dell'appuntamento con i compleanni del giorno. Esatto, all'interno dell'almanacco sì. Abbiamo il Sancta Sanctorum. Bravo, bravo. Del positivo. Bravo. I tanti auguri e i buon compleanno. Un po' di positività, allegria, come direbbe qualcuno. Allegria, ecco. Colpo di scena. Salutiamo la bella e brava Romina Power. Nata nel 1951, mentre Richard Hell, quando nacque, lei lo sa? Oggi, ma nel 1949. Il 2 ottobre del 49, molto giusto. Proseguiamo con gli auguri al mitico chitarrista e bassista inglese, militante nei Genesis. Nasceva nel 1950 Michael Rutherford. Chitarrista? Mi è venuto? Rutherford, bravissimo, bravissimo. Abbastanza bene. Guardi, guardi che compie gli anni oggi. Il 2 ottobre del 51 ricco, venne al mondo. Bello. Capace. Capace, e lei sa cosa intendiamo. Grande bassista, grande cantante. Capace non solo nell'arte del basso e della musica, ma anche nell'arte dell'amour. Dell'amore, capace in tutto. Pensi che generazioni e generazioni di ragazzi, ragazzini e ragazzine hanno iniziato a suonare ascoltando i suoi Police. Sveliamo, eccolo, di chi stiamo parlando. Nasceva nel 1951, la precedeva di qualche anno, Sting. Sting, pungiglione. Auguroni. Mitico bassista e compositore dei Police. Chiuderei con un, se fosse possibile, più grande ancora di Sting. Mi permetta di salutarlo. Nasceva nel 1981 Toro. Toro? Toro. Ma in che senso Toro? Toro il cantante. Ah, Toro. C'è un cantante che si chiama Toro? Certo, il famosissimo cantante taiwanese Toro. Ah, Taiwan, da Taiwan, la vecchia Formosa, sì, capisco. Sì. Non ha mai sentito niente? Beh, mi documenterò. Comunque, auguri Toro. Mi chieda se ho mai sentito qualcosa di Toro. Lei ha mai sentito qualcosa, DJ Ariel, del cantante taiwanese Toro? No. Explain when I do, he turns away. the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keep it all. Dolcezza della mattina di Pane, Burro e Rock and Roll, grazie a Gatto Stevens con Father and Son. C'è l'Ariele, c'è Spadino, c'è Fricantoni, ma fondamentalmente lo sapete, ci siete voi a costruire questo programma radiofonico, e forse tra di voi c'è uno che più degli altri ha il compito duro due volte a settimana di aiutarci. È Carlo dalla tabaccheria, che si è già pentito, a dir la verità. Ti ho sentito un po' preoccupato stamattina. Buona giornata, tutto bene? Devo fare una piccola annotazione tecnica che non ti ho mai detto, nemmeno in fuori onda, te la dico subito. Noi ogni giorno rimettiamo le puntate di Pane, Burro e Rock and Roll in streaming su RadioRockFM.com o in download, insomma, volendo uno può riascoltare la puntata. Non so se ti è mai capitato, penso di no, perché non la sai questa cosa. La tua voce non c'è mai. Cioè, chiunque ascolta le repliche di Pane, Burro e Rock and Roll, nel momento della telefonata sente solo la mia voce. Tu non ci sei. Chiedo scusa a quelli che sentono le puntate, è un problema tecnico che stiamo tentando di risolvere, ma non è facile. Fortuna che in diretta ci sei, però. Questo per far sapere a chi ci ascolta in streaming che non sono, cioè non è il momento folle che io parlo da solo con la base, ma c'è Carlo veramente. Oh, se io ti sarò onesto, questa cosa, il 100 si può giocare o no? No. Sarebbe centenario 47. Anch'io ho cercato centenario, ma non c'era. Sai cosa ho cercato? Anche compleanno non ho trovato. Sì, c'è da dire che l'ho comprato in autogrill a un paio di euro, però insomma, compleanno mi sembrava strano che non ci fosse. Io comunque quasi quasi sciopero, perché io voglio giocare il 100. Cioè, fare quegli accrocchi lì di trovare un altro numero non mi piace tantissimo. Però dai, dai la tua. Ovvero? Oh. Ma c'è veramente il numero del... Cioè, il nome Ariel ha un numero? Ah, grazie. Carino. 89. Ok, Momo segno. Ok. Sì. No, ma non ci credo, c'è davvero Spadino? Allora abbiamo dato 89, 13 e 29. Ricordiamo che sono numeri da giocare per il lotto. È un lotto rock, non usciranno mai. Io, no, lo ricordo sempre Carlo, sennò poi si arrabbiano. No, non è rock, ecco. Io volevo giocare, però mi tolgo dallo sciopero, faccio l'autocrumiro. Perché ti dicevo l'altro giorno che scopro che anche i proverbi hanno un numero. E io avrei trovato un proverbio che secondo me a pane, burro e rock and roll ci sta bene. Ovvero, a ogni uccello il suo nido è bello. Così, che suona molto pane, burro e rock and roll, ed è il 6. Quindi ci aggiungiamo anche questo. Carlo, mi raccomando, se diventi ricco faccelo sapere che, come al solito, sì, si smazza. Ci sentiamo giovedì, eh? Buon lavoro, ciao! Nell'ultima mezz'ora di quest'oggi una nuova rubrica, vi avviso subito, è roba forte, lo scoprirete stando qui con noi. It wasn't very large, there was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. A jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong, even if you played it on the saxophone. Good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should, 'cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like, so we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. One, two, three, four. Let's see if you've got some more. People seemed to like our sound. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name, we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like, turn it down. Turn it down. We have children sleeping here. Don't you boys know any nice songs? Well, the years is rolling by. Di quegli artisti che ci meritiamo a pane, burro e rock and roll, quella folle di Frank Zappa e il suo viaggio nel garage di Joe's Garage. Tra pochissimi istanti appuntamento classico con il test attitudinale. Ripassate che poi sabato abbiamo il prossimo appuntamento per la distribuzione delle patenti da vero rocker, per chi non ha fatto in tempo a prenderle domenica, per gli amici di Milano, poi dopo arriveremo anche dagli altri, tranquilli, eh? Lo ricordo sempre. Allora, la nostra missione è quella di far sì che pane, burro e rock and roll cresca in ascolti in maniera vertiginosa. L'aiuto che chiediamo è a voi là fuori di spargere la voce, di far sapere che ci siamo. La sfida è a tutte le radio italiane, per quanto grandi possano essere, noi le batteremo tutte. Ecco, sul battere invece le radio, i network americani non ci avevamo ancora pensato, ma ringraziamo Federico che in questo momento ci sta ascoltando dalla California. Federico, però fai un passaparola agli italoamericani? Secondo me ci sta che si mettono anche ad ascoltarci da lì, no? Dici che punto troppo alto? Hai ragione, forse no. Grazie Federico, un saluto a te che in California hai il buon cuore di connetterti a internet per ascoltarci. Guardate che siete messi male, eh? Comunque è contento di aver beccato la 100ª puntata, 100.000 di questi giorni. Cartolina già pronta per essere spedita, lo so che è tardi, ma io sono venuto in vacanza adesso, no? Le cartoline qua sono ben accette, ne abbiamo ancora tante da leggere che guardano. Andiamo avanti fino alla prossima estate. Pink Floyd, Run Like Hell. Ehi! Hey! Ricordiamo agli amici e alle amiche là fuori che per poter avere la patente da vero rocker, l'unica possibilità, oltre ad inviarci 5 euro in busta chiusa negli studi di Rock FM, è azzeccare il test attitudinale. Sì, la prima parte non si doveva leggere, era un appunto privato, quella di 5 euro. Pazienza, la seconda parte è autentica e anche se per caso sbagliate, non abbattetevi, continuate ad ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll e la vostra cultura rock lieviterà come per miracolo. Partirei al volo con la domanda di quest'oggi che riguarda una coppia celebre, Lennon e Yoko. John Lennon, John e Yoko. Yoko. Era il 1969 quando, per l'appunto, John Lennon e la sua compagna Yoko Ono iniziano una particolare protesta pacifista contro ogni tipo di violenza nel mondo. Protesta che entrò a diritto non solo nella storia del rock, ma anche nella storia del costume. Ricordate cosa fecero John e Yoko in quella particolare situazione? Come al solito, tre proposte per limitare il campo. Ipotesi A. Tentarono di piantare 350 cipressi in Central Park a New York, ma la polizia americana li arrestò quasi subito con l'accusa di, aperte le virgolette, disturbo della quiete pubblica e tentato, ancora tra virgolette, disastro ambientale, quando con le prime due ruspe iniziarono a scavare nel parco. È forse questa l'ipotesi esatta? Ma vedremo. Ipotesi B. La celebre coppia John e Yoko si mise a distribuire spinelli arrotolati con cartine che riproducevano la bandiera militare inglese, la Union Jack, nei pressi di Westminster, dell'abbazia famosa di Westminster, a Londra. Quindi vennero fermati dalla polizia inglese mentre consegnavano un paio di spinelli proprio a degli agenti in borghese. Ai ai ai, non si fa. È forse questa quella giusta? Vedremo. Ipotesi C, terza ed ultima. I due, John e Yoko, decisero di trascorrere la loro luna di miele in una stanza di un albergo di Amsterdam, invitando la stampa di tutto il mondo ad entrare nella stanza stessa per fotografarli e riprenderli. E allora cosa fecero nel 69 John e Yoko? Tentarono di piantare dei cipressi a Central Park, spacciarono spinelli con la bandiera inglese a Westminster o si fecero fotografare nel loro letto nuziale? Ma, come al solito, la risposta ve la diamo dopo, la soluzione a tra poco.